at the sand of what machine is gone, di corsa senza guardare, at the vega tutte giorna, correre ne va fatica, appunto dire giù, è lontana se ne va, da vita così, e da stipa per numeri. E aspetta che chiova, l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnare. Ma poi quando chiava, l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnare. Fa scura e par la luna e te viesta passa lì, per te ogni cosa può parlare, ma te resta ne parola e o scorne te vorrà, ma passano cocca runa o te luce se ne va. E aspetta che chiova, l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnare. Ma poi quando chiova, l'acqua d'un fone va, tanto l'aria sa da cagnare. E aspetta che chiova, l'acqua d'un fone va, tanta l'aria sa da cagnare. Ma poi quando chiova, l'acqua d'un fone va, tanta l'aria sa da cagnare. Da da da.